guarracine che gli va a male, la bella voglia da censurare. Se facette un bello vestito di scarta di spino pulito pulito, con una parrucca tutta ingrifata, da ziarella imbraciolata, con lo chabosh, con le puzzine da fondo d'angresa, fina fina. E bella cataniglia, da premona, da conchiglia, nu cappiella gallonata, da codarino, da luzzo salato, tutto pose, mestratiella, gli va facendo lo sbafandiella, girava da qua e da là, l'annamurata, posso trovare. La sardella, lo barcone, steva suonando lo calascione, e a suono di trommette gli va cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia d'Asia Lena, ha lassato l'innamorata, perché niente all'aria alata. La guarracina che la guardaia della sardella s'innamoraia, se niente da una pavosa, la più vecchia maliziosa, le babbone rialata, va a mannarla la masciata, la pavosa pissa pissa chiatta e tunna, gelotis. La sardella casandetta, rossa rossa, sapacetta, per lo scuorno che si pigliaia, sotto una scoglia si ambizzaia, ma la vecchia del lavavoso, subito di sasca fanzoso, da sta maniera non trova partita in canna d'resta, lo marita. Se hai voglia di talloca, tanta smorfi non hai da fa, fora l'izzese e fora lo scorno, anime ora faccio tu corno, ciò s'antenna la sisardella, sa faccia la fanestella, fece un occhio a zennariella, lo sporuto innamoratiella. Ma la patella che steva da posta, la chiamaia faccia tosta, traditore sprovognata, senza parola malanata, che aveva inghiantata la letterata, per mia antica innamorata, de carrera, de chistiette, ogni cosa la dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliai a farfariello, ietta la casa sal marra solo, se carregai con mano mulo, di scoppette e di spingarda, povera palla, sto pescarda, quattro pistole e tre baionette dinta la sacca, siamo a te. La tua malieva l'annamorata e pigliatella stamazziata, tu fate taffa dammali uno, la deva pacca, resso cozzuno, schiaffa buone e parapesse, scoppoluna, fa cozze connesse, scioveracchione, sicotonossa e la macca, ossa e pilossa. Forse pizze cavoli una, al diluvio le su cozzuno, non mi dica che beva fuoco, se faceva per ogni luogo, te capistolata, ta la scappettata, tu calipistuno, bu, la licannù. Quanta botta, mamma mia, che si deve narrare così, accentrare l'imbarrata, ammali una l'impatrata, ma te cantato già stracquata, e mi manca mo' luciata, sicché data ma licenzi, grazie e bella, Aurier.